Il re Salomone amò, oltre la figlia di Faraone, molte donne straniere, moabite, ammonite, idumee, sidonie, ittite, dei popoli di cui il Signore aveva detto ai figli di Israele: «Voi non andrete da loro, né essi verranno da voi, altrimenti piegheranno il vostro cuore verso i loro dei». Invece Salomone si legò ad esse per amore. Egli ebbe 700 principesse per mogli e 300 concubine. Quando Salomone fu vecchio, le sue donne gli sviarono il cuore dietro le divinità straniere, e il suo cuore non fu più tutto del Signore suo Dio, come era stato il cuore di Davide suo padre. Salomone seguì Astarte, dea dei Sidoni, e Milcom, obbrobrio degli Ammoniti. Egli fece ciò che è male agli occhi del Signore, e non rimase fedele al Signore come Davide suo padre. È allora che Salomone costruì sul monte di fronte a Gerusalemme un'altura per Camos, obbrobrio di Moab, e per Milcom, obbrobrio degli Ammoniti. Così fece per tutte le mogli straniere, le quali bruciavano aromi e offrivano sacrifici alle loro divinità. Ma il Signore s'adirò contro Salomone, perché aveva alienato il suo cuore dal Signore Dio di Israele, che gli era apparso due volte, e gli aveva imposto proprio questo comando di non andare dietro alle divinità straniere. Ma egli non osservò il comando del Signore. Perciò il Signore disse a Salomone: «Poiché ti sei comportato così, e non hai osservato la mia alleanza e gli statuti che ti avevo imposto, ti strapperò il regno e lo darò al tuo servo. Tuttavia, in considerazione di Davide, tuo padre, non lo farò durante la tua vita, ma lo strapperò dalla mano di tuo figlio. Inoltre, non strapperò tutto il regno, ma darò a tuo figlio una tribù, in considerazione di Davide, mio servo, e di Gerusalemme, che ho scelto». Il Signore suscitò un avversario a Salomone, l'idumeo Adad, della stirpe reale d'Edom. Dopo che Davide ebbe battuto Edom, Joab, capo dell'esercito, salito per seppellire i morti, uccise tutti i maschi d'Edom. Joab, infatti, e tutto Israele erano rimasti là per 6 mesi, finché non ebbero sterminato ogni maschio in Edom. Adad però riuscì a fuggire in Egitto con alcuni idumei, servi di suo padre. Egli era allora un giovanetto. Partirono da Madian e giunsero a Paran. Presero con sé uomini di Paran e andarono in Egitto presso Faraone, re d'Egitto, il quale diede ad Adad una casa, gli assicurò il sostentamento e gli diede anche un terreno. Adad trovò grande favore presso Faraone, il quale gli diede in moglie la sorella di sua moglie, la sorella della regina Tafni. La sorella di Tafni gli partorì il figlio Genubat, che Tafni allevò nella casa di Faraone. Genubat rimase nella casa di Faraone tra i figli di Faraone. Quando Adad apprese in Egitto che Davide si era addormentato con i suoi padri e che era morto Joab, capo dell'esercito, disse a Faraone: «Lasciami partire perché vada nella mia terra». Faraone gli rispose: «Che cosa ti manca presso di me perché cerchi di andartene nella tua terra?» Quegli riprese: «Nulla, ma lasciami andare». E Adad ritornò alla sua terra. Ecco il male che Adad fece: nutrì avversione per Israele e regnò su Edom. Dio suscitò contro Salomone un altro avversario, Razzon, figlio di Eliada, che era fuggito da Hadadezer, re di Zoba, suo signore. Alcuni uomini si raccolsero presso di lui ed egli divenne capobanda quando Davide li massacrò. Razzon si recò a Damasco, vi si stabilì e ne divenne re. Egli fu avversario di Israele per tutta la vita di Salomone. Anche Geroboamo, figlio dell'Efraimita Nebatte di Zereda, il nome di sua madre era Zerua, una vedova, mentre era al servizio di Salomone, si rivoltò contro il re. Questo è il motivo per cui si rivoltò contro il re. Salomone nel costruire il Millo, stava colmando la breccia della città di Davide, suo padre. Questo Geroboamo era un uomo valente e gagliardo. Salomone vide come il giovane lavorava e lo pose a capo di tutto il reclutamento del casato di Giuseppe. Ora avvenne che Geroboamo, uscito da Gerusalemme, incontrò per strada il profeta Achia di Silo. Costui era coperto d'un mantello nuovo e solo loro due si trovavano nella campagna. Allora Achia afferrò il mantello nuovo che indossava e lo strappò in 12 pezzi, poi disse a Geroboamo: «Prenditi 10 pezzi, perché così dice il Signore. Ecco, strapperò il regno dalla mano di Salomone e darò a te 10 tribù. A lui resterà una sola tribù in considerazione del mio servo Davide e di Gerusalemme, la città che ho scelto fra tutte le tribù di Israele. Questo perché egli mi ha abbandonato, si è prostrato davanti a Astarte, dea dei Sidoni, a Camos, dio di Moab, e a Milcom, dio degli Ammoniti, e non ha camminato nelle mie vie, facendo ciò che è giusto ai miei occhi, i miei statuti e i miei decreti, come Davide, suo padre. A lui però non toglierò di mano il regno, perché l'ho costituito principe per tutto il tempo di sua vita, in considerazione di Davide, mio servo, che ho scelto e che ha custodito i miei comandamenti e i miei statuti. Toglierò invece il regno di mano a suo figlio e darò a te 10 tribù, mentre a suo figlio conserverò solo una tribù, affinché rimanga in perpetuo una lampada per Davide, mio servo, davanti a me in Gerusalemme, la città che mi sono scelto per collocarvi il mio nome. Prenderò dunque te, perché regni su tutto ciò che desideri e sarai re di Israele. Se tu ascolterai quanto ti comanderò e camminerai nelle mie vie e farai ciò che è giusto ai miei occhi, custodendo i miei statuti e i miei comandamenti, come fece Davide, mio servo, io sarò con te e ti edificherò una casa duratura come la edificai a Davide. Ti darò Israele e in tal modo umilierò la discendenza di Davide, benché non per sempre». Salomone cercò di fare morire Geroboamo, ma questi si levò e si rifugiò in Egitto presso Sisac, re d'Egitto, e vi rimase fino alla morte di Salomone. Le altre gesta di Salomone, tutte le sue azioni e la sua sapienza non sono forse descritte nel libro degli Atti di Salomone. Il tempo in cui Salomone regnò in Gerusalemme su tutto Israele fu di 40 anni. Poi Salomone si addormentò con i suoi padri e fu sepolto nella città di Davide, suo padre. Suo figlio Roboamo regnò al suo posto.